adesso chiederò tutto e lo farò adesso. Posso comunicare in tempo reale, sapere, ottenere l'accesso. Regalami i segreti finora nascosti, niente è sconosciuto, on your lobby. Posso rendermi visibile o invisibile, conoscere vite che mai avrei potuto sfiorare. Conoscenza virtuale, dammi una email, ti dirò tutto di me. Protetti dalla rete, con la rete si può cadere e non farsi mai male. Immaginarti, immaginarti, come io vorrei, e così tu sarai, immaginarti. Incontrarti, come io saprei.